posso scrivere stanotte. Troppo casino senza te. Nella mia mente fai baccano. Stanotte male dico te. Io non riesco a non pensarti. Come riesci a farlo tu? Che sei passata come un treno e la mia vita non c'è più. Fogli di carta sparsi in giro, sul pentagramma sempre tu. Versi e note senza fine del tuo passaggio dentro me. Stanotte voglio non pensarti. Sparisci dai pensieri miei. Voglio affacciarmi dai miei occhi. Rivoglio il cuore mio per me. Stanotte voglio accarezzarti e dirti che io lascio te. Alzarmi, sbattere la porta, lasciarti tutto e anche te. Piano si ribella e stona la malinconia. Vuole un tango senza fine, lo vuole dedicare a te. Con ogni tasto suono fine, ma se mi fermo torni tu. Scrivo e cancello ogni parola e poi di nuovo scrivo te. Stanotte voglio non pensarti, sparisci dai pensieri miei. Voglio affacciarmi dai miei occhi, rivoglio il cuore mio per me. Stanotte voglio accarezzarti e dirti che io lascio te.